Al coro Riccardo Maiorana. Nuvolari e basso di statura, nuvolari al di sotto del normale. Nuvolari a 50 kg d'ossa, nuvolari a un corpo eccezionale. Nuvolari alle mani come artigli, nuvolari a un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Tu vedi un sabato, vedi un sibo, vedi da. Sibo, vedi un sibo, vedi un sibo di nana. Uccelli nell'aria perdono l'ali quando corre nuvolari. No, no, no, no, no, no, no, no. Quando passano nuvolari mette paura perché il motore è feroce mentre taglia ruggendo la pianura. Gli alberi della strada strisciano sulla piada, sui muri cozzi di bottiglia. Quando corre nuvolai, quando passa nuvolai, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolai, quando passa nuvolai, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore, e finalmente quando sente il rumore salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. Nuvolari e bruno di colore, nuvolari alla maschera tagliente. Nuvolari alla bocca sempre chiusa, di morire non gli frega niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3+3 per lui fa sempre 7. Con l'alfa rossa fa quello che vuole, dentro il fuoco di 107. C'è sempre un numero in più nel destino quando corre nuvolare. Passano volari, ognuno sente il suo cuore vicino. In gara a Verona è davanti a Bordino. Con un tempo d'inferno, a 4 anni in evento, pericolo di uscire di strada. Ogni giro l'inferno, ma spando strisce schiacciato. Lo raccolgono quasi spacciato. Rinasce come rinasce il ramarro, batte Varzi e Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilliperi e Ascari.